Giovani talenti. Giovani talenti. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti Estate, voci dalla nuova immigrazione. Anche oggi proseguiamo la nostra inchiesta a puntate nel mondo dei giovani espatriati di talento che a decine di migliaia lasciano ogni anno il bel paese. Questo pomeriggio indaghiamo in particolare su un nuovo settore, quello medico. Sono tanti nel silenzio i camici bianchi che salutano l'Italia alla ricerca di approdi professionalmente più felici. Cercano opportunità all'estero, scoprendo spesso che le loro competenze sono più apprezzate fuori dal nostro paese che non in patria. A volte basta inviare con un semplice click un curriculum vitae per venire assunti, come ha scoperto con sorpresa Silvia Mainardi, specialista in medicina interna, ora a Norrköping, 170 km a sud-ovest di Stoccolma. E poi c'è Federico Soldani, che ha assunto l'incarico di responsabile per gli studi di sicurezza ed efficacia a lungo termine delle nuove terapie neuropsichiatriche presso la Food and Drug Administration americana, una delle agenzie federali più importanti oltreoceano. Siete pronti allora ad allacciare le cinture e a partire per una traversata dell'Atlantico? Stiamo per atterrare a Washington DC, capitale federale degli Stati Uniti. Incontreremo Federico Soldani, medico toscano di 37 anni. Nome: Federico. Cognome: Soldani. Età: 37. Città di origine: Pisa. Studi: medicina e epidemiologia e neuropsichiatria. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2001. Per andare dove? A Boston, nel Massachusetts, Stati Uniti d'America. Perché? Ero stato ammesso al corso di laurea in metodi di ricerca clinico epidemiologica alla Harvard University. Quale lavoro svolge attualmente? Epidemiologo alla Food and Drug Administration e Research Associate in psichiatria alla Harvard Medical School. Dove? A Washington DC e a Boston. Tornerai? Può darsi, ma difficilmente nei prossimi anni. Dopodomani me ne andrò da questi lidi, cercherò asilo negli Stati Uniti, e a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello, e ad Ancona è già pronto un bastimento che porterà il cervello via col vento. Gappa, cervello in fuga, ci trasporta col suo bastimento nei pressi di Washington, dove ha sede la Food and Drug Administration americana. Allora Federico, iniziamo a parlare del percorso che ti ha portato negli Stati Uniti. Prima però parliamo di Italia. In una tua email a giovanitalenti@radio24.it hai scritto una frase che voglio subito commentare con te. Ho dovuto lottare per i 6 anni del corso in medicina contro le spinte a entrare nel circuito delle raccomandazioni e delle protezioni. Perché Federico? Direi perché il sistema universitario italiano e più in generale il sistema paese non accettano che si possa studiare oppure lavorare seguendo delle regole che siano valide per tutti. Questo è, a mio avviso, un problema in primis culturale e di mentalità, che non si risolve semplicemente importando nuove regole che poi verranno aggirate se prima non cambia il costume. Direi che in Italia molto spesso non si accetta che ci si possa far valere senza che si contragga un debito personale con qualcuno, ma magari soltanto perché si è fatto bene il proprio dovere come studenti, ecco, oppure si è stati bravi nel lavoro che ci si è scelti. Questo penso che porti coloro i quali entrino nel genere di sistema al quale ho appena accennato, in particolare le persone giovani che dico accettino le regole di un contesto di quel tipo, a non credere mai veramente in se stesse. Il meccanismo è concepito in modo tale da portare a demotivare, a far perdere la spinta innovativa che anima i giovani e a far arrivare a credere che in fin dei conti esista soltanto la possibilità di affermarsi tramite lo scambio dei favori. Un sociologo americano ha definito il sistema italiano, con un'espressione a mio avviso decisamente azzeccata, ha parlato di familismo amorale. Federico, iniziamo a parlare di te, della tua storia. Tu ti laurei, tra l'altro, con 110 lode e dignità di stampa in medicina e chirurgia a Pisa. Un risultato di tutto rispetto. In qualche modo ti apre delle porte, almeno quando stavi in Italia? Il mio desiderio di imparare da subito i metodi di ricerca mi spinge a prendere parte a pochi giorni dalla laurea ai primi corsi internazionali con una borsa di studio della Comunità Europea, corsi dove mi viene proposto immediatamente di presentare domanda di ammissione all'Harvard University negli Stati Uniti. Quindi, e tu non ci pensi due volte, tra l'altro non ci pensi due volte perché, spinto anche un po' dal tuo professore, affronti una selezione durissima, solo il 5% di ammessi su base mondiale ce la fai. Sono partito nel 2001 per andare a studiare, come dicevo, in un corso di laurea prima e di dottorato poi, le mie materie di interesse, che sono la neuropsichiatria, la psicofarmacologia, i metodi di ricerca clinico-epidemiologica, in un'istituzione, Harvard, nel cui corpo docente ci sono alcuni tra gli esperti più, insomma, qualificati al mondo per quanto concerne le discipline delle quali mi occupo. Federico, raccontaci un po' l'impatto con Harvard. Abbiamo un po' il mito, se vogliamo, anche in Italia di Harvard come una delle più grandi università mondiali. Com'è stato un po' l'impatto? Dunque, la missione ad Harvard per me è stato un momento certamente importante, perché mi ha permesso di mettermi alla prova con un sistema universitario completamente differente da quello nel quale mi ero sin lì formato, ed è stata un'occasione per confrontarsi con degli standards di, insomma, selezione rigorosi su base internazionale, che non contemplano altre logiche se non quelle legate agli elementi che i comitati che operano questa selezione possono evincere dalla domanda di ammissione. Meritocrazia allo stato puro, potremmo dire. Tu nel 2005 però temporaneamente, per vari motivi, torni in Italia e, da come ci scrivi, ti scopri incompatibile col sistema. Cioè, è bella l'espressione che usi: in Italia c'è troppa politica da ufficio contro una politica dei risultati concreti all'anglosassone. Spiegaci meglio. Sono due problemi che mi preme sottolineare. Uno è il peso, insomma, eccessivo che nella mentalità, insomma, italiana, che viene dato al prestigio delle attività accademiche a paragone di quelle di ricerca. E due, il fatto che anche nei centri migliori, come quello dal quale ho avuto la fortuna di, insomma, provenire, concentrarsi sul lavoro non viene vissuto spesso, troppo spesso, come la questione centrale e insomma irrinunciabile. Ecco, piuttosto ci si concentra ampiamente sulla cosiddetta, insomma, politica da ufficio, oppure, ecco, ricordo, per citare così un po' di aneddotica, che se mi davo troppo da fare, insomma, arrivava sempre qualcuno, non qualche sia mai collega, insomma, ecco, a fare domande, a fare battute, a chiedere non sia mai che lavori troppo, di arrivare e cose di questo genere. Non sia mai che tu sia troppo ambizioso in qualche modo. Ecco, esatto. Ora devo accelerare un po', però, insomma, poi tu resti negli Stati Uniti, vieni chiamato anche dal provosto di Harvard a insegnare con lui, un'esperienza di altissimo livello, di altissimo profilo. Dopodiché arriva anche il salto, tra le altre cose, alla Food and Drug Administration, che ricordiamo è una delle principali agenzie federali statunitensi. Come ci arrivi e di cosa ti occupi attualmente? Qui sono attualmente responsabile per gli studi di sicurezza ed efficacia a lungo termine delle nuove terapie neuropsichiatriche negli Stati Uniti. In particolare sono responsabile della valutazione scientifica dei, insomma, devices psichiatrici, neurologici e neurochirurgici. Insomma, alcune delle terapie delle quali mi occupo includono nuovi metodi come la stimolazione cerebrale profonda, la stimolazione vagale, la stimolazione magnetica transcranica e che molte altre. Federico, purtroppo dobbiamo correre, ma c'è un aspetto interessante che volevo accennare in un flash con te. Tu hai avuto anche occasioni, almeno tre occasioni, di collaborare con l'Italia, ne sei uscito sempre un po' disilluso. Perché? Per far capire il diverso modus operandi tra Italia e Stati Uniti, posso fare tre esempi rapidi di progetti di studio su cui mi è stato proposto nel tempo di, insomma, collaborare. Il primo, insomma, raccogliamo dati clinici su più di 400 pazienti per circa un anno, per scoprire soltanto a posteriori che non era mai stato richiesto l'ok, insomma, al comitato etico per l'utilizzo ai fini di ricerca di quei dati, il che significò avere sprecato tempo, insomma, risorse. Il secondo esempio, mi fu proposta una collaborazione importante ma senza fondi, insomma, dedicati, e dico ancora non capisco come avrei dovuto trovare il tempo per lavorare a quello studio. Il terzo esempio, mi fu proposto di coordinare un progetto di ricerca senza che io risultassi come coordinatore sotto il profilo formale. Questo apriva tutta una serie di problemi, perché poi, insomma, alla fine di questo lavoro sarei stato io a dover rendere conto, ma se non mi venivano dati gli strumenti per raggiungere con successo gli obiettivi prefissati, non vedo come questo sarebbe dovuto accadere. E penso che la morale della storia sia semplice: in Italia, insomma, abitualmente non vengono riconosciuti ruoli di responsabilità alle persone giovani. Domanda di rito, Federico: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Vedo l'Italia non come un paese per giovani, la vedo come un luogo bello ma privo di guida, privo di leadership, privo di una classe dirigente che riesca a dare al paese una direzione ben definita. Gran parte del potere dell'establishment gerontocratico viene impiegato nell'attutire, nel frustrare queste energie fresche. Direi, con un'espressione freudiana, che nell'Italia di oggi prevale, insomma, l'istinto di morte su, insomma, quello, insomma, verso la vita. Quale consiglio daresti a un tuo giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? In ogni caso vale la pena provare un'esperienza di studio di lavoro all'estero, nei centri migliori per la propria professione, cosa che è quasi una tappa obbligata per chi si occupa di ricerca, perché questo offre una serie di, insomma, aspetti positivi, e poi, insomma, costringe a mettersi in discussione, a mettere in discussione tutti i propri assunti, e in ultima analisi, insomma, aiuta senz'altro a crescere e a migliorare come professionisti e direi anche come esseri umani. E prima di proseguire con il viaggio nel mondo dei nostri giovani espatriati, apriamo lo spazio ai migranti, dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Esiste un sito denominato Mappa Cervelli che si pone come obiettivo quello di mappare i flussi dei nostri migliori ricercatori e scienziati nel mondo. Ciò che non si misura non esiste, ciò che non si vede non si comprende. Questo è il motto del sito che nel suo piccolo sta realizzando un importante lavoro. Ce ne parla Riccardo Rossi, l'ideatore. Mappacervelli.org nasce dalla mia esperienza negli Stati Uniti. Quando ero là, negli Stati Uniti, a lavorare, mi sono reso conto che gli italiani sono tanti, silenziosamente e molto operativamente ovunque. Quindi sono tanti, ma c'era la necessità di quantificarli e soprattutto di vedere quanti sono e dove sono, perché proprio partendo dal presupposto che ciò che non si misura non vale e non esiste, ciò che non si misura economicamente anche non vale, e temo che per i ricercatori italiani all'estero questo valga molto. E quindi l'idea è stata quella di fare un censimento, un database. Di database ce ne sono tanti, però fare un database strutturato, curato, al fine di quantificarli e di visualizzarli sul globo, proprio applicando delle tecnologie basate sul web e basate sui software fondamentalmente. Nel vostro database di Mappa Cervelli, quanti ricercatori italiani all'estero avete mappato finora? Attualmente siamo quasi ad un migliaio, diciamo circa 850. In realtà di nomi ce ne sono molti di più, ma questi sono quelli che abbiamo curato e controllato. Dove si trovano soprattutto questi ricercatori italiani e cosa fanno? In quali aree soprattutto lavorano? Uno dei nostri scopi è visualizzare i flussi, cioè da dove arrivano, dove vanno e se rientrano eventualmente. Ovviamente il Nord America gioca un ruolo fortissimo, tantissimi sono in Nord America, ma non solo, Nord Europa, Scandinavia, è un altro focus, un altro luogo molto, molto pieno di italiani, l'estremo oriente, Singapore, direi, se devo fare una generalizzazione, nell'emisfero settentrionale, con particolare attenzione agli Stati Uniti d'America e al Canada. La domanda di rito è sempre: perché se ne vanno, perché lasciano l'Italia? E soprattutto conosciamo bene il fatto che c'è una circolazione di cervelli nel mondo, ma spesso questo purtroppo in entrata non riguarda l'Italia. Ed è per questo motivo che è importante osservarne i flussi. Il perché se ne vanno è abbastanza naturale. In alcune scienze più di altre, nelle scienze biologiche, mediche, è un passo quasi automatico, professionale, diciamo. Quindi se ne vanno per imparare, per migliori opportunità di lavoro. Il problema è appunto che è difficile rientrare. Tali opportunità e tali possibilità anche di imparare, ovviamente di guadagnare ugualmente, in Italia non ci sono. Ma questo vale per gli italiani, ma anche per gli stranieri nei confronti dell'Italia. Oltre alla mappatura pura e semplice che state facendo, che è lo scopo principale di mappacervelli.org, avete anche altre iniziative che intendete sviluppare sul sito? Noi speriamo entro l'anno di pubblicare i primi risultati quantitativi e appunto visualizzabili sul sito per quanto riguarda il censimento. Nel frattempo noi raccogliamo storie, un po' come fa questa trasmissione, ma soprattutto abbiamo realizzato un documentario che è visibile sul sito, si chiama Storie di Frontiera. Sono 10 interviste a 10 italiani che lavorano nella scienza negli Stati Uniti, girato un paio di anni fa. E poi il sito stesso vuole diventare un aggregatore di notizie che riguardano quindi i ricercatori, le scienze in genere, da quelle dure a quelle umanistiche, e i problemi dell'università. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.mappacervelli.org. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Oggi puntata interamente dedicata al settore medico, i camici bianchi che espatriano, potremmo riassumere con un titolo. Dopo Federico Soldani, al lavoro in un'importante agenzia federale statunitense, è ora il momento di prendere il volo di ritorno per l'Europa e di rinfrescarci un po', almeno climaticamente. Atterriamo in Svezia, a sud-ovest di Stoccolma, dove ci aspetta per raccontarci la sua storia Silvia Mainardi, 31enne specialista in medicina interna con indirizzo d'urgenza. Lei è emigrata dal Veneto. Nome? Silvia. Cognome? Mainardi. Età? 31 anni. Città di origine? Vicenza. Studi? Liceo classico a Vicenza, poi la laurea in medicina e chirurgia a Padova e mi sono specializzata in medicina interna con indirizzo urgenza sempre a Padova. Anno in cui hai lasciato l'Italia? 2009. Per andare dove? In Svezia. Perché? Perché qui ho trovato con un semplice colloquio di lavoro quello che in Italia avrei ottenuto dopo anni di precariato e di concorsi non, diciamo, poco limpidi. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono medico specialista in un ospedale pubblico. Dove? A Norrköping, è una città che si trova a 170 km a sud-ovest di Stoccolma. Tornerai? Mai dire mai, ma per il momento io dico no, grazie. Allora, questa è la presentazione di Silvia Mainardi, la protagonista di questa puntata di Giovani Talenti, un giovane medico 31enne veneta. E Silvia, prima di iniziare diamo anche qualche dato interessante. Tra il 2003 e il 2007 ben 1048 camici bianchi italiani sono immigrati nel Regno Unito, attratti da maggiori possibilità di crescita professionali e da stipendi anche più elevati. Questo secondo dati del General Medical Council britannico. Aggiungiamo anche che nell'estate del 2009 il Corriere della Sera riportava come ben 400 tra medici, infermiere e ostetriche si misero in fila a Bologna ai colloqui di selezione per un posto di lavoro all'estero. Solo 100 erano quelli disponibili. Le destinazioni in palio, Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi. Ad attenderli oltre frontiera c'era un contratto a tempo indeterminato più benefits vari. Ma è così difficile fare il medico in Italia, Silvia? In sé non è difficile. Il problema è riuscire ad avere un contratto appunto a tempo indeterminato e una buona posizione subito dopo aver conseguito la specializzazione. Di solito ci si impiega qualche anno, bisogna fare dei concorsi e molto spesso si sa che non si entrerà subito al primo tentativo perché c'è già qualcuno che aspetta di entrare, che si è già scodato al barone di turno, a qualche potente che ha promesso di farlo entrare, per cui non conta a volte solo il merito ma anche l'essere arrivato secondo, terzo o ultimo del carro. E sì. All'estero i concorsi non esistono, qui in Svezia non esistono e so che anche in altri paesi d'Europa e del mondo non esistono, per cui si entra per curriculum, si fa un colloquio, se piaci al capo si entra. As simple as that, direbbero gli inglesi, semplice come lo dici. Silvia, partiamo dalla tua storia, dopo gli studi che è successo? Dunque, a gennaio del 2009 io mi sono specializzata in medicina interna e durante gli ultimi mesi del mio corso di specializzazione avevo un po' iniziato a guardarmi intorno per capire un po' quali possibilità lavorative ci sarebbero state e purtroppo la situazione non sembrava molto incoraggiante. Una prima possibilità sarebbe stata quella di fare un periodo di precariato più o meno lungo nella speranza di poter vincere appunto prima o poi qualche concorso. E cosa voleva dire precariato per me? Nel mio caso era aprire una partita IVA, lavorando comunque a tutti gli effetti come una dipendente in un'azienda sanitaria pubblica, però senza nessuna tutela in caso di malattia o, esempio, un'eventuale maternità. E la seconda alternativa per me sarebbe stato invece un lavoro, sì sicuro, però piuttosto lontano da dove abitavo io in Veneto. Quindi circa 3 ore di macchina al giorno tra andata e ritorno e quindi questo sommato ai turni, alle notti e tutto non sarebbe stato sostenibile a lungo termine, nel senso in prospettiva di anni di lavoro in questo posto. Quindi visto che per avere un lavoro sicuro avrei dovuto comunque trasferirmi da qualche altra parte e per mio marito non ci sarebbero state possibilità di lavoro se non dove abitavamo già, abbiamo già deciso di guardarci intorno all'estero. Silvia, tutti laurei tra l'altro con 110 lode, senza ritardi in medicina e chirurgia all'Università di Padova, ti specializzi, 70-70 con lode, insomma i requisiti c'erano più o meno tutti anche per fare una buona carriera in Italia. Cos'è che non ha funzionato? Ma in realtà appunto il mio percorso ha avuto successo fino alla specializzazione, il brutto è arrivato dopo, perché dopo 11 anni tra la laurea e poi il lavoro di specializzando, che comunque appunto è un lavoro, non avevo più voglia di continuare a fare una gavetta che si sarebbe prospettata comunque anche sottopagata, oppure non avevo voglia di fare concorsi che avevano un esito abbastanza scontato. Sapevo già che in molti posti a cui ambivo non sarei entrata perché il risultato veniva sempre deciso a priori. E questo non per avere un posto, diciamo, di prestigio, ma solamente per riuscire a lavorare in modo accettabile. Qui inaccettabile sono gli orari e il tipo di lavoro, la distanza da casa e anche la prospettiva chiaramente di un impiego stabile. Ovviamente a 30 anni io pensavo a poter avere anche dei figli e questo non sarebbe stato fattibile con un lavoro precario. D'altra parte, se invece avessi scelto di restare a casa per fare un figlio con uno stipendio solo, quello di mio marito, anche questo non era una cosa fattibile. Silvia, un po' il tema l'hai accennato anche tu, che è quello forse delle baronie che invadono purtroppo anche il campo sanitario. Raccontaci anche qualche aneddoto, raccontaci cosa accade poi nei nostri ospedali, nelle nostre università di medicina. Sono dei personaggi, adesso non voglio generalizzare perché sicuramente c'è del pulito e dell'onesto anche in molte università, in molti posti di lavoro, questo sicuramente, però in altri, diciamo, i concorsi sono già pilotati, ci sono persone che lavorano precarie per tanti anni sperando in un posto di lavoro, quando quindi questo si libera c'è sempre qualcuno che è già arrivato prima e che deve entrare per forza, il concorso viene più o meno pilotato, per cui viene fatto vincere chi si è accodato da più tempo al barone di turno, chi ha fatto qualche favore al barone di turno o comunque chi ha degli agganci in politica. Non sono cose semplici da raccontare e purtroppo sono cose che in qualche modo contraddistinguono anche il nostro paese. Silvia, quando e perché lasci l'Italia? Nel novembre del 2008, quando dovevo ancora specializzarmi e vista la situazione avevo già iniziato a guardarmi all'estero anche con mio marito Gabriele. E la scelta è ricaduta poi sulla Svezia a causa del lavoro di mio marito, appunto, che è piuttosto particolare, ma poi ve lo racconterà lui che cosa fa. E alla fine abbiamo scelto Norrköping, visto che lui è meteorologo, qui in Svezia, perché si trova il centro meteorologico nazionale svedese. Quindi abbiamo contattato rispettivamente appunto il centro meteo e l'ospedale pubblico di questa città, da cui ci sono arrivati per entrambi dei riscontri positivi. Alla mia mail di richiesta informazioni per un eventuale lavoro mi hanno risposto dopo 15 minuti da che l'avevo inviata, ero ancora seduta davanti allo schermo e mi è arrivata la risposta, per cui io non ci potevo nemmeno credere. Immagino non ti conoscessero, non avevi raccomandazioni? Assolutamente no. Questa è la Svezia. Assolutamente no. Silvia, cosa significa fare il medico in Svezia? Quanto è diverso rispetto al nostro paese? È molto diverso, è stato uno shock sia culturale, sia perché il sistema è organizzato in modo completamente diverso, sia anche dal punto di vista linguistico, perché io non sapevo una parola di svedese a gennaio dell'anno scorso. Quindi è stata una bella novità su più fronti e imparare anche un modo di lavorare diverso è stata un'esperienza di arricchimento professionale. Qui siamo apprezzati, però abbiamo dovuto, sia io che una mia collega che è arrivata dopo, imparare comunque un modo di lavorare diverso, a raffrontarci anche con una realtà che è molto molto differente per certi aspetti anche migliore della nostra. In che senso? Per esempio, un aneddoto, diciamo, il sistema sanitario qui è tutto informatizzato, la cartella clinica è accessibile in scala regionale a tutti i medici, che siano gli specialisti, i medici di base, i medici dell'ospedale, le ricette sono elettroniche, anche il modo di gestire il paziente è organizzato in modo diverso. E per capire come funziona questo sistema ci è voluto un bel po'. Poi anche il rapporto con i colleghi è molto più rilassato, i pazienti sono meno, diciamo, meno aggressivi nei confronti del medico, ci sono molte meno denunce, per il fatto che anche il sistema, diciamo, assicurativo e il sistema giudiziario qui nei confronti dei medici funziona in modo completamente diverso. Non è possibile denunciare penalmente un medico a meno che non si tratti di un errore veramente grave e macroscopico e intenzionale, per cui si lavora in modo molto più rilassato. Silvia, c'è molta organizzazione, però in qualche modo noi latini, noi italiani riusciamo a dare un piccolo bonus, forse proprio perché siamo abituati ad affrontare continue emergenze, e questo lo dicono molti italiani che poi lavorano nei settori scientifici all'estero. Tu hai qualcosa da aggiungere? Ma io dico che l'arte di arrangiarsi certamente nel mio caso è un bonus in più. Infatti io lavoro in una medicina d'urgenza, in un pronto soccorso, dove la capacità di far fronte all'imprevisto in modo rapido ed efficace è chiaramente essenziale. E nel reparto dove lavoro sono state pubblicate anche delle statistiche riguardanti per esempio i tempi d'attesa, il funzionamento del servizio a seconda di chi lavora in un determinato momento, in un determinato turno. E si è visto che chi tra i medici proviene da paesi in cui l'improvvisazione e l'arte di arrangiarsi fanno parte integrante della cultura, quindi italiani ma anche medici provenienti da paesi del sud Europa, questi funzionano meglio degli svedesi, che sono invece chiaramente imbattibili nell'arte dell'organizzare e di pianificare tutto nel minimo dettaglio. Insomma, quando quindi improvvisare è l'eccezione, non la regola, le cose vanno bene, ma quando diventa la regola forse no. Silvia, in un flash, come vedi l'Italia dall'estero, cosa non va, cosa cambieresti e come? Il rapporto con l'Italia per me è di amore e odio, perché io amo l'Italia, però è la mia casa, ma non mi permette di viverci e di di fare quello che vorrei. Il problema, uno dei grossi problemi, è che ultimamente il merito, la cultura e l'onestà più di qualche volta valgono meno di essere famosi, di essere parte dello spettacolo. E in certi settori poi, appunto, se non c'è la raccomandazione giusta o se non si paga, non si ottiene quello che si vorrebbe, o magari lo si ottiene con più difficoltà. E non è facile chiaramente trovare una soluzione a questo problema. Lo Stato certamente può fare molto, ma molto secondo me sta anche ai singoli, che dovrebbero comprendere quali sono le cose importanti, e non solo per se stessi ma anche per il bene del proprio paese. Quindi sta nella testa degli italiani questo. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. Oggi si chiude la discussione aperta nella prima puntata di agosto, su cui vi riferiremo alla ripresa della stagione autunnale il 18 settembre. Ultima possibilità dunque per partecipare al dibattito. Parliamo delle misure legislative ideate per facilitare il rientro dei professionisti espatriati. Gli ultimi mesi hanno portato con sé importanti novità. L'approvazione alla Camera del DDL contro esodo, che introdurrà incentivi fiscali finalizzati al ritorno dei professionisti under 40 espatriati da almeno 2 anni, e l'articolo 44 della manovra, che riduce le imposte a ricercatori e docenti che tornano in Italia. Queste misure, a vostro avviso, sono sufficienti? E cosa si può fare ancora? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it, oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E non dimenticate di visitare il blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Attendiamo le vostre lettere che pubblicheremo online. Scriveteci. E siamo sempre alla caccia di storie per le puntate autunnali di Giovani Talenti. Se è giovane e under 40, laureato o laureata magari con master, emigrato o emigrata dopo svariati tentativi di affermarti professionalmente in Italia, tutti andati a vuoto? Espatriato o espatriata, grazie a un contratto ottenuto per merito e selezione che ti ha permesso, pur ventenne o trentenne, di raggiungere posizioni professionali inimmaginabili per te in Italia? E nonostante ciò non riesci a trovare posizioni equiparabili nel bel paese nell'ottica di un ritorno? Scrivici a giovanitalenti@radio24.it, ti daremo voce. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti Estate, aspetto allora i vostri contributi online a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona estate da Sergio Nava.